Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una volta Fabrizio De André, in una sua canzone, ha detto che era bello accorgersi che dove finivano le sue dita, beh, lì iniziava una chitarra. È incredibile rendersi conto di quello che uno strumento musicale può diventare nelle mani di un abile suonatore. Un pezzo di legno e corde, oppure d'ottone e tasti, può trasformarsi in un oggetto magico, in grado di sprigionare suoni meravigliosi. Uno strumento è un tramite tra l'anima di chi suona e quella di chi ascolta. È quello che crea un ponte, un'unione perfetta, una reale, palpabile condivisione di sentimenti. E la chitarra, in particolare, ha saputo regalarci molte di queste emozioni. A tutti noi è capitato di avere un amico che l'ha imbracciata in qualche occasione, sulla spiaggia, in mezzo a un prato, al termine di una cena. Uno strumento di antiche origini, diventato popolare proprio in virtù della meraviglia dei suoni che sprigiona. Strumento di derivazione medio orientale, il nome chitarra deriva con tutta probabilità dalla parola tar, che significa letteralmente corda. Viene introdotta in Europa al seguito degli arabi e subisce una lunga serie di modifiche strutturali prima di raggiungere la forma e la dimensione con cui noi oggi siamo abituati a conoscerla. La chitarra rinascimentale, ad esempio, aveva solo 4 corde di budello, cui in seguito ne viene aggiunta una quinta. E questa è la cosiddetta chitarra spagnola, che rimarrà in auge fino alla fine del Settecento. Di fattura spesso raffinata, abbellita da pregevoli decorazioni proprie dell'epoca barocca, la chitarra così concepita incontra senza dubbio il favore di principi e di re. Presso la corte di Luigi XIV, per dire, era regolarmente stipendiato un maestro di chitarra. Sul finire del XVIII secolo lo strumento acquista una sesta corda ed ecco la chitarra francese, destinata a subire un ulteriore aumento di dimensione della cassa armonica fino ad assomigliare sempre più allo strumento che tutti noi conosciamo. Una storia lunga, complessa, che parte da luoghi lontani per approdare non solo ai più prestigiosi palazzi europei, ma anche alle strade, alle taverne e ai ritrovi di ogni genere nel corso degli ultimi 7 secoli. Strumento per eccellenza della tradizione popolare, la chitarra infatti è nata dal basso. Le sue origini storicamente affondano nella pratica del popolo anziché in quella colta degli studiosi di musica. Ma c'è un uomo in particolare che ha saputo innalzare la dignità di questo strumento fino a farlo diventare degno di studio nei conservatori di tutto il mondo. Lui è uno fra i più grandi chitarristi mai esistiti, il vero padre della chitarra classica così come la conosciamo. Il suo nome è André Segovia. André Segovia. Se André Segovia ha rivoluzionato il modo di intendere la chitarra, passata da strumento popolare ad assoluto baluardo della tecnica e addirittura della classicità, il merito non è soltanto suo. La perfetta unione tra popolare e colto, quell'unione che trova nel rapporto con la chitarra la sua espressione emblematica, è merito non solo di un chitarrista, di un esecutore puro come Segovia, ma anche del compositore che più di ogni altro lo ha ispirato. È stato proprio questo autore ad avere scritto le prime vere pagine di composizioni classiche riservate a uno strumento che era considerato ancora un po' reietto. È stato lui ad avere integrato in modo geniale e inedito gli elementi popolari, coloriti e pieni di intenso sapore nazionalistico con il rigore degli spartiti e la disciplina degli studi musicali più seri. Stiamo parlando di Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Con i suoi preziosissimi apporti al repertorio della chitarra, Heitor Villa-Lobos ha cambiato per sempre la storia della composizione musicale. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a conoscerlo meglio. Per farlo occorre spostarci nello spazio, oltre che nel tempo. Andiamo in una delle città più vive, vivaci e colorate del pianeta. 6 milioni di partecipanti, 700 sfilati lungo le strade di Rio, 1 milione di turisti. In Brasile è festa per il carnevale più famoso al mondo. Per la prima volta il numero dei turisti brasiliani raggiunge quello degli stranieri, conseguenza della crisi europea e del boom economico del paese latinoamericano. Eccoci in Brasile, nella splendida e festosa Rio de Janeiro, sede del carnevale più spettacolare che ci sia. Il Brasile, e Rio in particolare, è davvero molto legato a questa tradizione, così come è legato alle proprie musiche popolari e alla propria storia. Heitor Villa-Lobos, nativo di Rio de Janeiro, viene al mondo il 5 marzo del 1887. La tradizione del carnevale alla fine dell'Ottocento è già attiva da più di un secolo. La musica, la vitalità, la creatività sono elementi che a Rio si respirano con assoluta naturalezza, come fossero le particelle d'ossigeno e azoto dell'aria. Impossibile che un bambino non ne assorba almeno un po', tanto più se i suoi genitori non fanno altro che incoraggiarlo. La mia musica sgorga naturale, come una cascata. Raul Villa-Lobos, padre di Heitor, è un uomo di cultura, di mestiere fa il bibliotecario e si intende anche di astronomia. Così, un po' per divertimento e un po' per tentare di placare la sua inestinguibile curiosità. Ma non è finita qui. Raul è anche un abile musicista e si diletta non appena ne ha l'occasione con il violoncello. È difficile tenerlo fermo e anche suo figlio Heitor sembra aver preso da lui. La sua sete di conoscenze e di esperienze non ha confini, fin da quando è piccolissimo. Eppure da bambino non gli serve agitarsi tanto né fare grandi giri esplorativi per scoprire e imparare cose nuove. A volte gli basta semplicemente restare appollaiato in cima ai gradini della scala di casa, mentre al piano di sotto suo padre suona il violoncello insieme agli amici, in una delle tante serate musicali che animano il salotto di casa Villa-Lobos. Il piccolo Heitor sta lì, ascolta, rapito. Quelle melodie e quelle note un giorno non troppo lontano saranno sue, ne è sicuro. È così, tramite l'osservazione clandestina, che il piccolo Heitor si appassiona agli strumenti musicali. Violoncello, clarinetto e perché no anche la chitarra. Dopotutto gli tornerà utile dal momento che è lo strumento più popolare che ci sia. L'approccio di Heitor alla musica è genuino e viene dall'esperienza diretta. Nasce fra le mura di famiglia, un luogo dove si respira da sempre una formidabile atmosfera musicale e continuerà al di fuori delle pareti di casa, in conseguenza di un evento tragico, la morte del padre Raul, quando Heitor ha appena 12 anni. È un brutto colpo che però incoraggia Heitor a esibirsi insieme alle orchestre locali nei cinema e nei teatri di Rio, nel tentativo di dare una mano alla famiglia rimasta senza sostentamento economico. Fino a quel momento una simile attività gli era stata proibita. I Villa-Lobos sono di estrazione borghese, non mandano i figli a lavorare. Ora però l'aiuto di Heitor è necessario. A lui non dispiace affatto, tanto più che non ha nessuna intenzione di chiudersi tra i banchi di una scuola di musica. Metti piede in un'accademia e stai pur sicuro che quelli riusciranno a rovinarti per benino. Altro che aule e disciplina. Heitor è la sua storia, personale e musicale. Vuole scriversela tutta da sé. A 18 anni, appena ne ha la facoltà, prende e parte per un lungo viaggio per conto suo. Si lancia nell'entroterra brasiliano per assorbire e fare proprie le varie culture musicali che scaturiscono dal cuore del paese. Viaggia a piedi o con mezzi di fortuna. Incontra senza paura i membri delle tribù indigene, riuscendo a sfuggire persino alla minaccia dei cannibali. Alcuni studiosi in futuro metteranno in dubbio l'effettiva veridicità di queste sue spedizioni avventurose, etichettandole come fantasiose ricostruzioni del suo ingegno fervido e romantico. Ma una cosa è certa. Il viaggio nella giungla brasiliana, Heitor lo fa e come? E ne torna arricchito sia come persona che come musicista. Si allontana ancor più dall'idea di preparazione scolastica e accademica per abbracciare piuttosto le molteplici influenze delle varie culture brasiliane incontrate girovagando nel paese. Chi ha detto che la musica popolare non si possa elevare al rango di grande musica, alla pari di Brahms, di Borodin, di Bartok e di molti altri grandi maestri? Dopotutto loro stessi si sono ispirati e hanno tratto linfa proprio dall'arte popolare. Heitor ritrova nelle musiche popolari brasiliane gli stessi elementi che si rintracciano nell'opera di certi grandi autori. Questo lo stupisce piacevolmente, instradandolo su un sentiero che non abbandonerà più per l'intero corso della sua carriera. Nel sud del paese, tuttavia, si trova a scontrarsi con una realtà ben diversa da quella amazzonica. Qui non c'è l'aura incontaminata dove respirare profumi e ritmi nati dalla pratica quotidiana della popolazione, melodie che sembrano scaturire direttamente dal cuore antico del Brasile. Il sud, piuttosto, appare molto influenzato dagli immigrati europei. Avendo spesso fatto studi musicali in Europa, gli altri compositori brasiliani si limitano a riprodurre le opere in voga nel vecchio continente, abbandonando l'idea di lanciarsi in composizioni del tutto originali o aderenti alla tradizione brasiliana. È un vero peccato. Ma a lui non importa quello che fanno gli altri, dopotutto. Lui andrà dritto per la sua strada. Fin dalle sue prime composizioni, Villa-Lobos mescola elementi portoghesi, africani, perfino mutuati dalla cultura degli indiani d'America, il tutto all'insegna della più sfrenata contaminazione. E proprio queste sue prime composizioni, lo sapete come nascono? Strimpellando su una chitarra, strumento popolare per eccellenza. Villa-Lobos non scrive musica per chitarra, ma con una chitarra. C'è una bella differenza. Del resto, nessuno compone musica apposta per la chitarra. È uno strumento del popolo, basta prenderlo in mano, pizzicare tre corde ed è fatta, che altro serve? Ma verrà, non troppo lontano, il giorno in cui si scriveranno spartiti e spartiti apposta per questo strumento bistrattato, perché è considerato troppo plebeo. E sarà proprio Villa-Lobos a iniziare questa tradizione. Ma non corriamo troppo avanti. La strada da fare qui a Rio de Janeiro è ancora parecchia. Suonavo con le band di strada, gruppi di folk locale, in giro per le vie di Rio. Poi sono venuto a sapere che si era liberato un posto come violoncellista in un'orchestra. Ho fatto il provino e sono entrato. Ci voleva qualcosa che mi spingesse a smettere di viaggiare, che placasse almeno un po' la mia sete di curiosità. Ed è stato l'amore. Heitor Villa-Lobos smette di girovagare per il Brasile e si sposa nel 1912 con Lucília Guimarães, una giovane pianista sua conterranea. La vita sedentaria non è monotona, tutt'altro. Heitor scrive musica in continuazione come fosse un vulcano in attività, sta tirando fuori tutte le idee che gli hanno attraversato la mente durante i suoi viaggi. Idee che premevano per essere riversate su un pentagramma. Compone e suona. Tiene svariati concerti in cui presenta al pubblico le sue composizioni originali, ma sia il pubblico che la critica, a dire il vero, non sempre si mostrano clementi con lui. In compenso però il governo brasiliano lo ama. Le musiche scritte da Heitor Villa-Lobos sono uno spot vivente per il paese, un tributo costante a una tradizione complessa e variegata. Come può il governo sdebitarsi con il compositore musicale? Beh, sembrerà paradossale, ma lo fa offrendogli un viaggio a Parigi in quella vecchia Europa che tanto Villa-Lobos aveva cercato di rifuggire nel corso degli anni della sua formazione. Forse, dopo tutto, è ora che conosca il nemico, che se lo faccia amico, che lo veda da vicino per poterlo comprendere in fondo. Ancora non lo sa che questo viaggio si rivelerà fondamentale per gli sviluppi futuri della sua carriera. Ah, Parigi! Difficile resistere al suo fascino, specialmente se si è artisti. Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa all'infuori di Parigi, diceva Friedrich Nietzsche. Una città in cui l'arte ha sempre regnato sovrana fin dalla notte dei tempi. Poesia, musica, pittura, cinema, teatro, scultura, architettura si sono da sempre fuse in un crogiolo di influenze, scorrendo placide l'una accanto all'altra come le barche sulla Senna. Un luogo sognato e agognato da milioni di persone in tutto il mondo. Un posto che per lungo tempo è stato la capitale indiscussa della cultura mondiale. È qui che si formulavano e si dibattevano le idee dominanti della società ed è qui che si inaugurava l'era del progresso illuminista. È qui che si rivoluzionava la pittura grazie agli impressionisti e potremmo continuare per ore a elencare le meraviglie accadute sul suolo parigino. Un luogo magico al cui fascino indiscusso non resiste nemmeno Heitor Villa-Lobos. Tanto per cominciare, a Parigi Heitor è accolto con tutti gli onori dovuti a un eccellente compositore. Viene ammesso nei salotti più esclusivi, luoghi brulicanti di idee e personaggi, di uomini straordinari con cui condividere la propria concezione di arte, da Pablo Picasso a Leopold Stokowski, passando per Aaron Copland. Ma l'incontro più importante per Villa-Lobos non sarà quello con dei direttori d'orchestra, come verrebbe naturale pensare, e nemmeno con quello di un pittore spagnolo. Sarà sempre con uno spagnolo, questo sì, è vero, ma con un chitarrista di qualche anno più giovane di lui. Incontrai Segovia nel 1923 o 1924, ora non ricordo esattamente la data. Comunque, fu a casa di Olga Moraes Sarmento Noabri. Nella sala era riunita molta gente importante. Vidi un giovanotto dalla folta chioma, completamente circondato di donne. lo trovai un tantino pretenzioso, nonostante mi risultasse subito simpatico. In un sontuoso salone per ricevimenti, Heitor Villa-Lobos ha modo di incontrare per la prima volta il chitarrista insieme al quale sta per scrivere pagine importantissime della storia della musica. All'inizio è diffidente. André Segovia non gli sembra nient'altro che un giovanotto presuntuoso, anche se a ben guardare non è poi tanto più giovane di lui. Giusto una manciata di anni e nulla più. Il violinista portoghese Costa chiese a Segovia se conoscesse Villa-Lobos, che poi sono io. Senza però fargli notare che io mi trovavo lì. André Segovia non sa che proprio lì, a pochi passi da lui, si trova il compositore portoghese e non sa, così come non lo sa Villa-Lobos, che la sua vita sta per cambiare. La rutilante Parigi, la Ville Lumière, la città dalle mille luci, ancora una volta, è teatro di un formidabile incrocio di destini. E così, in una sera che sembra una delle tante splendide sere parigine tra gli specchi e gli stucchi di un'elegante residenza d'epoca, si sta per compiere una specie di miracolo. Un chitarrista, virtuoso di uno strumento musicale che però è ancora considerato popolare, addirittura quasi plebeo, sta per convincere un famoso compositore a scrivere dei pezzi originali pensati appositamente per quello strumento così bistrattato. Forse non sarà un'impresa facile, dal momento che i due, al primo impatto, non sembrano nemmeno starsi troppo simpatici. Ma dopotutto, non ci metteranno molto Villa-Lobos e Segovia a trovare dei punti in comune. Destini incrociati. Una sera d'inizio anni 20, nella lussuosa residenza della signora Olga Moraes Sarmento Noabri, si sta tenendo un ricevimento al quale partecipano molte personalità in vista della vita culturale parigina. Non si tratta soltanto di artisti e intellettuali francesi. Parigi è la capitale europea, se non addirittura mondiale, della cultura e attrae a sé nomi provenienti da molti paesi diversi. Tra gli invitati ci sono un compositore brasiliano, Heitor Villa-Lobos, e un chitarrista spagnolo, André Segovia. I loro destini sono sul punto di incrociarsi e di fare scintille. Il violinista portoghese Costa chiese a Segovia se mi conoscesse, senza però fargli notare che io mi trovavo lì. Segovia rispose che Miguel Llobet gli aveva parlato di me e gli aveva mostrato alcune mie opere. Segovia aggiunse anche che trovava antichitarristiche le mie composizioni, dato che ricorrevo sempre a certi espedienti inadatti allo strumento. Soltanto allora Costa gli confessò che anch'io ero presente a quel ricevimento. Fu allora che mi avvicinai a Segovia, chiedendogli perché trovasse antichitarristiche le mie composizioni. Va da sé che Segovia non fu affatto contento di sapere che io non solo ero presente, ma avevo anche ascoltato la conversazione in cui lui parlava male di me. Comunque non si perse d'animo e rispose che, ad esempio, secondo lui, il dito mignolo non si utilizzava nella tecnica della chitarra classica. A che, a mia volta, gli risposi, piuttosto piccato, «Ah, non si usa, eh? E allora perché lei possiede quel dito? Se lo tagli, quindi?» Se lo tagli! La conversazione fra i due inizia con un animato, benché scherzoso, battibecco. Segovia cercò di replicare, ma io, senza lasciarlo parlare, gli dissi: mi permette di usare un momento la sua chitarra? Lui, manco a dirlo, resistette il più possibile, dato che non presta mai a nessuno la sua chitarra. Ma stavolta non riuscì nel suo intento. Mi sedetti, suonai e da quel momento non mi curai più della festa. Il compositore Heitor Villa-Lobos imbraccia la chitarra di André Segovia e inizia a suonarla. Il chitarrista spagnolo rimane estasiato da quello che sente, anche se, a dire il vero, lui di chitarra ne sa già qualcosa. Eppure Villa-Lobos ha un modo tutto suo di suonarla. Segovia intuisce che in quell'incontro che sembra casuale forse c'è nascosto il seme di qualcosa di più grande, qualcosa che segnerà per sempre la sua vita e la sua carriera. La chitarra è una piccola orchestra. È polifonica. Ogni corda ha un suono diverso, è un suono diverso, è un diverso colore. Il suono della chitarra riecheggia in queste strade assolate e fra questi meravigliosi edifici in pietra chiara fin dagli albori della storia della Spagna. Siamo a Granada, nello splendido complesso dell'Alhambra. Qui risuona l'anima andalusa che nessuno strumento meglio della chitarra sa rappresentare con tanta fedeltà. Qui, all'inizio del Novecento, un giovane ragazzo andaluso si è trovato a respirare un'atmosfera unica, fatata, intrisa di storia, di tradizione. Eccoci qui, nel palazzo dell'Alhambra. Sono venuto qui la prima volta in questo posto da sogno quando avevo appena 10 anni. A dire il vero sono nato a Linares, che non è tanto lontano da qui. Ma poi è qui che ho aperto per la prima volta gli occhi sulla bellezza della natura e soprattutto sulla bellezza dell'arte. Andrés Segovia non ci arriva di certo a caso a Granada. Il merito è di un suo zio che intuisce la bravura del nipote. È bene che il piccolo studi in una scuola di musica seria se si vuole far emergere tutto il suo potenziale. Ha dei gusti difficili. Sin da bambino storce il naso quando sente il flamenco. Eppure è la musica della sua terra e della sua tradizione, no? Ma lui se ne frega, fa di testa sua, preferisce la musica classica, cosa piuttosto strana per un ragazzino alle prime armi. Studia come un matto e si esercita senza sosta. Ed è così che a 16 anni, a Granada, Andrés Segovia tiene il suo primo concerto. Poco importa se la sua famiglia sogna per lui un futuro come avvocato, lui da quell'orecchio non ci sente. Il suo orecchio è tutto musicale. La vita artistica del giovane Andrés Segovia si fa rapidamente fitta di impegni, divisa com'è fra lo studio e le esibizioni. Prima a Madrid, poi al Conservatorio di Parigi, quindi a Barcellona. Fin da subito il giovane non si inserisce nella linea dei chitarristi votati alla composizione di opere originali. Era normale per la maggior parte di loro scriversi da sé i brani che poi sarebbero stati inseriti nella scaletta dei propri concerti. Lui invece si considera un interprete puro e preferisce piuttosto cimentarsi con pezzi non frequentati abitualmente dai colleghi. Il suo intento non è quello di diventare un genio delle composizioni, ma di focalizzarsi unicamente sulla tecnica interpretativa. A Andrés Segovia non interessa scrivere musica, gli interessa suonarla. Il suo scopo è quello di dimostrare che la chitarra suonata in un certo modo può aspirare a contesti ben più grandi di quello in cui è stata relegata per secoli. Quando ho iniziato a suonarla io, la chitarra era prigioniera di una sorta di circolo vizioso. Non esistevano compositori che scrivessero apposta dei pezzi per chitarra, e questo succedeva perché ancora, all'epoca, non esistevano nemmeno dei veri e propri virtuosi dello strumento. Non era uno strumento degno di tanto studio, insomma. Segovia invece lo considera degno e come, ed è disposto ad apprendere quel che ritiene necessario da completo autodidatta, se proprio non esiste nessuno a cui chiedere insegnamenti. Una curiosità inestinguibile lo sorregge nel suo percorso di ricerca. Entrare in contatto con pittori e letterati, oltre che con musicisti, lo aiuta ad approfondire il suo sapere in molte direzioni differenti. La sua biblioteca in casa è piena di volumi di ogni sorta. Eppure è proprio con i musicisti che riesce spesso ad instaurare i rapporti più proficui. Del resto lui è un musicista, è una cosa del tutto naturale. Ed è proprio questo quello che accade all'inizio degli anni 20. Un incontro con un musicista di fama e più precisamente con Heitor Villa-Lobos, che una sera in mezzo alla folla degli invitati a un ricevimento gli ruba la chitarra e inizia a suonarla. Di fronte al deciso entusiasmo del maestro Villa-Lobos, dovetti rinunciare con enorme rincrescimento al mio proposito, che era soltanto quello di salvare il mio povero strumento dai rischi che tanta veemenza poteva causargli. E quindi non ebbi altro rimedio che prestarglielo. Suonando, Villa-Lobos trae ispirazione per il suo lavoro di compositore. Perché non scrivere musica appositamente per la chitarra, dopo tutto? D'accordo, è uno strumento popolare, storicamente. Ma chi ha detto che non possa venire innalzato al rango di tutti gli altri strumenti d'orchestra? Lui la musica popolare l'ha sempre amata, molto più di quella tradizionalmente consacrata dai sigilli accademici. Si tratta solo di riprendere confidenza con lo strumento e poi lasciarsi andare. Segovia mi chiese dove avevo imparato a suonare. Gli risposi che non ero un chitarrista, nonostante conoscessi perfettamente la tecnica di Carulli, Sor, Aguado, Carcassi, eccetera. A questo Segovia non rispose, ma rimise lo strumento nel suo astuccio e poco dopo lasciò il ricevimento. Il giorno dopo venne a casa mia con Thomas Tera. Dissi loro che non avrei potuto riceverli in quel momento, dato che avevo un invito a colazione, e sarei tornato soltanto molto tardi. Se ne andarono, e poi tornarono quando io ero già di ritorno da un pezzo. Discorremmo e suonammo la chitarra fino alle 4 del mattino. È così, dagli incontri, che spesso nascono le grandi idee e le grandi imprese. Segovia, dopo quella notte, mi diede l'incarico di comporre uno studio per lui. Ma da quel momento in poi fu così profonda la nostra amicizia che invece di un solo studio ne scrissi 12. Questi studi non sono solo destinati a riempire le carriere e i repertori di André Segovia ed Heitor Villa-Lobos, ma serviranno a scrivere nuove pagine della storia della musica classica. La chitarra entra da questo momento in poi a far parte a tutti gli effetti del repertorio della classicità. Destini incrociati. Tutto il mondo musicale riconosce oggi il contributo del genio di Villa-Lobos al repertorio chitarristico. Lui fu una benedizione per lo strumento, e anche per me. A pronunciare queste parole è André Segovia, che commissiona a Heitor Villa-Lobos, compositore brasiliano, uno studio per chitarra classica. Villa-Lobos non è certo abituato a comporre musiche per chitarra, ma piuttosto per pianoforte o altri strumenti. Il pianoforte è un mostro che urla quando inizi a toccare i suoi denti. André Segovia non ha dubbi. Il pianoforte per lui è uno strumento inferiore alla chitarra. Il pianoforte è duro, ostico, rigido. È uno strumento a cui un musicista si deve piegare e non viceversa. La chitarra invece è duttile. Fra le braccia del proprio amante diventa morbida come di seta ed esegue i comandi che le vengono chiesti pizzicando delicatamente le corde con le dita. A Villa-Lobos il lavoro che ha davanti sembra una nuova sfida, una sfida a cui non vuole rinunciare per nessuna ragione al mondo. Suonando alcuni degli studi composti appositamente per lui da Heitor Villa-Lobos, André Segovia è destinato a diventare un'autorità schiacciante fra i virtuosi della chitarra. Anzi, si può dire che il primo vero virtuoso della chitarra in assoluto sia proprio lui. Almeno fino al termine degli anni 50, Segovia non avrà rivali in condizioni di competere con la sua bravura, né tantomeno con la consistenza del suo repertorio. Lascia che il tuo corpo, che il tuo petto si appoggi dolcemente alla chitarra che stai suonando. Così farai in modo che la poesia della musica trovi una cassa di risonanza nel tuo cuore. Virtuoso della chitarra, abilissimo concertista e attento insegnante per le nuove generazioni, André Segovia passa la sua intera esistenza immerso nel suono ipnotico della sua chitarra. Una melodia soave e inconfondibile. Un canto che, proprio come quello delle sirene, è capace di attrarre l'attenzione di schiere di giovani bisognosi di trovare la propria strada. Il consiglio che io do a tutti i miei studenti è quello di studiare la musica con tutta la passione possibile, attribuendole più importanza che a qualunque altra cosa nella loro vita. Devono far conto che la musica sia come un oceano immenso, e gli strumenti musicali sono come delle isole, a volte grandi, a volte piccole, sempre rigogliose e piene di vegetazione. Intanto Villa-Lobos, compositore segoviano per eccellenza, oltre agli studi scrive anche i choros, brani per chitarra che diventeranno ben presto un classico dello strumento. In Brasile, nel frattempo, è diventato eroe nazionale. I suoi preziosissimi apporti al repertorio della chitarra lo hanno innalzato nell'Olimpo degli eroi brasiliani. Ma non soltanto in patria, anche all'estero la sua figura è riconosciuta come fondamentale. In tutto il mondo risuonano le sue Bachianesche, perfetta fusione di elementi classici e influssi della tradizione popolare brasiliana. un compositore geniale e multiforme, che ha saputo ispirare con i suoi strepitosi grovigli di note le geniali dita di un grandissimo interprete di chitarra. Non c'è musicista che al giorno d'oggi non riconosca André Segovia come massima autorità in materia di tecnica chitarristica. E non solo fra gli strumentisti classici, per così dire. Anche grandi chitarristi elettrici si sono sperticati in lodi infinite nei confronti del geniale maestro. Tutto ciò oltretutto nonostante la manifesta avversione dello stesso Segovia nei confronti di qualunque strumento elettrico. Qualcuno di voi per caso ha mai sentito parlare di un violino elettrico? O magari di un violoncello elettrico, o che ne so, forse di un tenore o di un mezzo soprano elettrico? Segovia, quando ha pronunciato queste parole decisamente polemiche, di certo non sapeva che i violini e i violoncelli elettrici sarebbero stati inventati prima o poi. Ma il suo discorso, dopotutto, rimane sostanzialmente invariato. Per lui, il fascino della propria chitarra classica, groviglio di legno e corde reso magico dal tocco sapiente delle dita di un esperto, non può essere eguagliato da nessun amplificatore, non importa quanto sia potente. Non occorre amplificare proprio un bel niente. La chitarra, dentro di sé, ha già tutto quello che occorre a soddisfare l'orecchio di un uditorio, e anche molto di più. La chitarra è come un'orchestra, però guardata col binocolo al contrario. Dentro il legno di una chitarra, sul filo delle sue corde spesse, dentro il foro della sua cassa di risonanza, si schiude un mondo magico, fatto di sogno e sospensione, di note che echeggiano nell'aria, di vibrazioni, di pause, di riprese. Nella strepitosa cornice dell'Alhambra, sontuoso complesso di edifici che domina la città di Granada, riecheggiano ancora le note sprigionate dalle agili dita di André Segovia, mentre scorrono sulla sua chitarra, strumento capace di contenere in sé tutti i suoni del mondo, a patto di saperlo suonare come si deve. Nelle sale da concerto di tutto il mondo, da Barcellona a Parigi fino a New York, Segovia ha portato la sua esperienza di indiscusso protagonista del Novecento. Forse tutto questo non sarebbe stato possibile se non fosse stato per quel furto di chitarra inscenato una sera da Heitor Villa-Lobos. Un colpo utile e ben assestato, specialmente se rivolto a un uomo che dalla sua chitarra non si separa mai. Pochi comprendono l'influenza del liutaio sulla vita e sulla carriera dell'artista. In mancanza di un adeguato strumento, la fantasia, la ricchezza emozionale, la precisione tecnica e l'essenza dell'interpretazione musicale, tutto ciò rimane latente. Potrebbe non rivelarsi mai, o al più rivelarsi solo in modo imperfetto. La chitarra, a ben guardare, è proprio come un amante. Chi la suona la stringe a sé fra le proprie braccia, sprigionando emozioni fortissime. Emozioni che vanno ben al di là della semplice tecnica virtuosistica. Emozioni che entrano nello stomaco e nell'anima, più forti di un pugno, correndo sulle note del pentagramma. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.